comenza il mar, il sol, chi dal cor ti cancellò, chi dal cor ti cancellò. Qual destino ti furò, quale destino ti furò, al natio fulgente sol, o rammenta pur nel dol, chi di gioia te brillò, e che pace col trova ancora, ti trova.